Io me ne stavo da solo leggendo Calvino. Lei si avvicina, sorride, mi offre del vino ed iniziamo a parlare di letteratura. Si era fatta di certo una bella cultura. Pericolo.